Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera. In un delirio di onnipresenza radiofonica, oggi trovate me a condurre Focus Economia, quando di solito sempre ci ascoltiate anche di mattina, mi trovate a 9 in punto. Insomma, è un caso, se si ripeterà sarà solamente un caso raro sostanzialmente. Oggi Sebastiano Barisoni non c'è, ma torna domani naturalmente. Se volete scriverci, come sempre, il 349-238-6666, non ho sotto mano la pagina Facebook di Focus Economia, me ne scuserete, mi potete scrivere su Twitter se preferite il digitale, agli sms, mi trovate Simone Spezia. Di cosa parleremo oggi? Naturalmente uno dei temi centrali di questa puntata sarà questo Fondo Monetario Internazionale che finalmente fa un mea culpa sulla gestione della vicenda greca, evidenziando anche delle fratture che evidentemente ci sono state all'interno della cosiddetta troica, ossia il gruppo che comprendeva appunto il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea e naturalmente la Commissione Europea. Il Fondo Monetario ammette gli errori, diciamo, ce ne eravamo accorti anche noi da qualche tempo. E però, per darvi un'idea, il Fondo Monetario aveva previsto che tra il 2009 e il 2012 il prodotto interno lordo di Atene sarebbe calato del 5,5% e invece è sceso del 17%. La disoccupazione era stimata ad un 15% nel 2012, ha toccato il 25% e oggi siamo praticamente a ridosso del 27%. Su questo si sta scatenando un po' di battaglia anche tra le varie componenti della cosiddetta troica, perché lo stesso Mario Draghi ha detto che non ha alcuna intenzione di fare mea culpa nella conferenza stampa di oggi, e lo ha detto anche la Commissione Europea. A proposito di Draghi, naturalmente c'è anche questo di elemento, la decisione, o meglio la non decisione di oggi della Banca Centrale Europea, che ha lasciato fermi i tassi di interesse, ha deciso di non intervenire nemmeno sui depositi overnight, ossia insomma di non portare in negativo i tassi ai quali le banche depositano la propria liquidità presso la Banca Centrale Europea. Era un'idea che era stata ipotizzata perché si è detto, insomma, se porti in negativo quei tassi le banche non hanno più interesse a tenere i soldi depositati presso la BCE e quindi fanno respirare l'economia. Su questo ci sono dei dubbi. Comunque sia, Draghi ha detto che sono tecnicamente pronti, ribadendo nella sostanza quello che aveva detto uguale il mese scorso, e quindi anche di Draghi parleremo, perché tra l'altro la Banca Centrale Europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita e soprattutto su quest'anno, e anche questo ha avuto un impatto sui mercati che hanno preso una china decisamente negativa. Il FTSE MIB c'è del 2,13%, il FTSE All Share 2 punti percentuali, va male anche il resto d'Europa, anche se non così male. Francoforte c'è dello 0,73%, Parigi mezzo punto percentuale, Londra l'1,08%, va bene l'America con il Dow Jones che guadagna lo 0,10%, bene si fa per dire naturalmente il Nasdaq che guadagna lo 0,16%. Altro tema che toccheremo è questa inchiesta di oggi, questo approfondimento che apre la pagina Finanza e Mercati del Sole 24 Ore. Qual è il titolo? Il titolo è: le banche tornano a fabbricare titoli tossici. Insomma, si torna indietro nel tempo. Il numero, ve lo ricordo ancora, per gli sms è il 349-238-6666, se volete mi potete scrivere su Twitter, Simone Spezia. Iniziamo con un po' di riassunto di questa giornata. A Chi ci dice la smentita di Bruxelles sulle ammissioni del Fondo Monetario Internazionale? No, non c'è stata smentita di Bruxelles. Bruxelles semplicemente esprime una tesi opposta a quella del Fondo Monetario Internazionale, il quale dice sì, insomma, questo documento nel quale ammettiamo i nostri errori c'è, e però con i numeri che avevamo allora non si poteva far diversamente, insomma, la situazione che vedevamo era quella. Oro in calo oggi in apertura a 1.401 dollari l'oncia, petrolio che ha aperto in rialzo a New York a 94,30 dollari al barile. Un po' di dati dall'Europa. La Germania evidentemente inizia a sentire, insomma, ne abbiamo già parlato e lungamente, anche delle conseguenze di una recessione che colpisce tutto il vecchio continente, tutta l'area euro, che è anche evidentemente il suo maggiore mercato di sbocco, e c'è un netto calo per gli ordini industriali in Germania, che ad aprile sono scesi del 2,3% rispetto al mese precedente. Gli esperti contavano su un calo dell'1%. Altri dati cattivi arrivano dalla Francia: disoccupazione al 10,4% e ai massimi dal 1998, l'ha comunicato l'Istituto di Statistica Nazionale, e considerando anche i dipartimenti d'oltremare la disoccupazione sale al 10,8% dal 10,5%. C'è anche la Grecia, la disoccupazione a marzo al 26,8%, in crescita dal 26,7%. In lieve miglioramento il dato relativo ai giovani tra 15 e 24 anni, del resto era difficile fare peggio, era al 64,2% la disoccupazione giovanile in febbraio, si è portata al 58,3%. Peraltro lo stesso Fondo Monetario Internazionale, del quale a questo punto in realtà già da tempo, non sappiamo se fidarci di queste previsioni. Comunque il prodotto interno lordo della Grecia si contrarrà, dice il fondo, del 4,2% nel 2013, per poi tornare a crescere nel 2014, quando salirà dello 0,6%. Parla il fondo di una ripresa graduale per l'economia greca. E appunto il Fondo Monetario Internazionale e la Grecia, questione sulla quale andremo nella seconda parte della trasmissione. Dice il Fondo Monetario: il piano di salvataggio della Grecia era una necessità, ha raggiunto notevoli successi, ma anche notevoli insuccessi. E questo anche perché sono state fatte supposizioni troppo ottimiste, stime troppo ottimistiche. Dice contemporaneamente il Fondo Monetario, tramite il portavoce Jerry Rice, che la Troica con i partner europei ha lavorato bene e sta lavorando bene insieme. E l'Europa, come si diceva, non è d'accordo con il rapporto del Fondo Monetario. Il portavoce di Olli Rehn, il commissario agli affari economici e monetari, ha rivendicato che è stato evitato il contagio e ha definito sbagliato e infondato pensare che fosse meglio permettere una ristrutturazione del debito nel 2010. Tra l'altro ha sottolineato che il rapporto non riflette una posizione ufficiale del board del Fondo Monetario Internazionale. Secco invece Mario Draghi, a una domanda di un giornalista: si sente di fare un mea culpa dopo le indiscrezioni appunto sul rapporto del Fondo Monetario Internazionale? Non direi. La presidente della Commissione economico-finanziaria del Parlamento europeo, intanto una Lib Dem britannica, Sharon Bowles, dice: è cosa buona, giusta che il fondo ammetta gli errori fatti, ma la vera domanda è se la lezione sia stata capita. Ce lo chiediamo anche noi. Allora, stiamo parlando della Banca Centrale Europea, tra poco ne parleremo, e c'è un problema evidentemente da sciogliere, che è quello del credit crunch, ossia della stretta del credito. in particolare per i paesi del sud Europa. Come ben riporta il Sole 24 Ore di oggi, insomma, dal credito bancario dipendono per quanto riguarda l'Italia, il finanziamento all'economia da parte del sistema bancario sfiora l'85%, in Spagna il 90%. Per quanto riguarda la Germania e la Francia siamo intorno ai 2/3 dell'economia, quindi evidentemente questo è un problema che ci riguarda strettamente. Bene, tra tante ammissioni, negazioni, il credit crunch non c'è, sì oppure no, interviene anche Standard & Poor's, che dice, con il capo economista per l'Europa Jean-Michel Six, sì, l'Italia si trova in una situazione di credit crunch molto evidente. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ribadisce che fornire liquidità al sistema è vitale, in quanto le imprese si devono già confrontare con un sistema fiscale eccessivamente complesso. La situazione del credito rende quasi impossibile investire e mette la semplice sopravvivenza a rischio. Ancora Squinzi, sui dati sul manifatturiero italiano che sono stati diffusi ieri, lo ricordiamo, raccontano di 55.000 imprese che sono morte tra il 2009 e il 2012, di un calo di 539.000 posti di lavoro nel giro di 5 anni e di una base industriale manifatturiera che si è erosa per il 15%, questo per quanto riguarda la capacità produttiva. Dice: se non sono dati da Pompei questi, ditemi voi, cita Pompei Squinzi. E ancora, sul via libera al decreto sul pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione, segnale positivo che va nella giusta direzione, dice anche se i 40 miliardi non sono sufficienti. E ancora, forse ancora più importante, abbiamo dubbi sui meccanismi per accedere ai pagamenti, che sono comunque pagamenti di soldi che spettano alle imprese. Su questo bisognerà prestare particolare attenzione. I meccanismi, perché è sempre sui meccanismi che si inceppa questo paese. Queste sono parole mie, non di Squinzi, però ecco, la situazione industriale usa un'espressione molto efficace, anche se naturalmente non ha molto senso giuridico, però un'espressione efficace che rende l'idea, la FIOM delle Marche, per quanto riguarda, dopo l'annuncio di esuberi alla Indesit, viene messa dentro anche la chiusura dell'Antonio Merloni, le difficoltà di Elica, Tecnowind e di tutto l'indotto dell'elettrodomestico, che sono spia di una crisi epocale, scrive la FIOM, che per decenni renderà impossibile un nuovo sviluppo. Parla la FIOM di stato di calamità industriale. Nel frattempo il ministro del lavoro Enrico Giovannini e il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni hanno firmato i decreti che assegnano alle regioni le risorse per la cassa integrazione in deroga. Un dato interessante che viene fornito da un rapporto dell'area attuariale dell'INPS e riguarda la riforma Fornero, la riforma delle pensioni. Tra il 2012 e il 2021 darà 80 miliardi di risparmi rispetto alle normative precedenti, tenendo conto dei costi delle salvaguardie, quindi compresa la salvaguardia dei cosiddetti esodati. La spesa subisce, si legge, una notevole contrazione che nel 2019 è di oltre un punto di PIL. Altri dati che arrivano dall'economia italiana e che sono forniti in questo caso dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che dice: nel 2012 sono stati incassati 12 miliardi e mezzo di euro dalla lotta all'evasione, a fronte di 10 miliardi che erano stati preventivati. Siamo sostanzialmente in linea con le cifre del 2011 e nell'anno è stata scovata evasione per oltre 28 miliardi. Si parla di 400.000 controlli sostanziali, a fronte appunto dei quali sono state accertate complessivamente maggiori imposte per oltre 28 miliardi di euro. E poi ci sono i dati sui consumi per chiudere quest'ondata di notizie ancora giù, lo avete sentito anche nel giornale radio, meno 3,9%, soprattutto il dato che colpisce in particolare è che dati normalmente in controtendenza come quelli che riguardano i beni e servizi per le telecomunicazioni sono scesi anche questi, una flessione del 2,5% su base mensile e dello 0,1% su base annua. Veniamo adesso al primo tema di questa giornata, ossia la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea nella riunione di oggi ha lasciato, lo sapete, il tasso di interesse di riferimento fermo allo 0,50%, una decisione in realtà ampiamente attesa dal mercato. Circolava anche l'ipotesi di portare in negativo i tassi sui depositi overnight, però insomma questa ipotesi che era nell'aria ma molto vagamente saltata, ha detto Draghi siamo tecnicamente pronti. Questo dal lato delle decisioni, mentre poi c'è da considerare anche l'abbassamento delle stime sulla crescita economica, anche questo sta avendo un impatto sui mercati. Il FTSE MIB cede 2,5 punti percentuali, vi segnalo che c'è una nuova accelerazione degli spread d'Italia e Spagna, i rendimenti dei decennali sono volati ai massimi da 3 mesi, il differenziale tra BTP e Bund a 10 anni ha sfondato quota 280 raggiungendo i 285 punti base, col tasso del BTP al 4,39%, a 313 punti base lo spread tra Spagna e Germania. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, prima di sentire te, ci sentiamo che cosa ha detto Draghi, innanzitutto sulla decisione di lasciare invariati i tassi. L'ultima volta abbiamo detto che il Consiglio direttivo guarderebbe a tutti i dati, monitorerebbe tutti gli elementi e poi sarebbe pronto ad agire. E quindi noi abbiamo avuto tante discussioni, anche molto ricche, su quelli, sui dati che abbiamo ricevuto dall'ultima volta a questa parte, sui cambiamenti che sono avvenuti, e alcuni cambiamenti vanno verso la giusta direzione, alcuni dati sono anche migliori di quanto ci aspettavamo, abbiamo le stime per l'inflazione che sono migliori nel mese di maggio e altri dati riguardo all'orientamento creditizio non sono buoni, ma comunque il Consiglio direttivo ha concordato sul fatto che non c'è un cambiamento di direzione che dovrebbe portarci a cambiare e a prendere nuove decisioni adesso. E detto ciò, io posso solo ripetere quello che ho già detto la scorsa volta, noi monitoreremo tutti gli sviluppi, gli orientamenti e saremo pronti ad agire. Oddio, avete sentito, ce ne scusiamo, l'audio non era eccellente, in realtà è eccellente se andate sul sito del Sole 24 Ore e ve l'ascoltate là, poi insomma abbiamo avuto qualche problema nella trasposizione e nel trasferimento, problemi puramente tecnici. Allora, Alessandro Merli, prima di andare su tutto il resto, bene, questa decisione era attesa dal mercato. Invece la famosa questione dei depositi overnight, che lo ricordiamo sono i soldi di fatto che le banche depositano presso la BCE, e c'era questa idea, peraltro non tutti gli economisti sono convinti che serva veramente a qualcosa, però di portarli in negativo, dice così le banche non le lasciano più alla BCE e iniziano a dare ossigeno all'economia. Draghi da questo punto di vista ha detto tecnicamente siamo pronti, ma forse nemmeno la BCE sono un granché convinti. Sì, il fatto che sono pronti l'aveva detto anche il mese scorso, sì. La BCE tecnicamente ha fatto tutto il lavoro preparatorio, però come dici giustamente non sono del tutto convinti che la cosa serva, bisogna ricordare che è un esperimento che è stato fatto altrove, la Danimarca lo ha fatto, la Svezia lo ha fatto, non è che abbia dato questi grandi risultati, perché cosa può succedere? Nel momento in cui le banche devono pagare per poter tenere i soldi presso la BCE, il ragionamento è, allora potrebbero invece prestare i soldi alle imprese e alle famiglie, ma se le banche invece decidono semplicemente di tenerseli questi soldi, oppure se li danno comunque alle imprese, alle famiglie, ma riversando su di loro questo costo aggiuntivo, cosa che è successa per esempio in Danimarca, a quel punto le condizioni del credito peggiorerebbero e non migliorerebbero. Io credo che questa cosa dei tassi negativi sui depositi delle banche presso la BCE sia stata usata un po' da Draghi il mese scorso, ci abbia un po' giocato per contribuire a raffreddare un po' l'euro che era in salita dopo l'annuncio delle decisioni giapponesi, e che la BCE non sia mai stata veramente convinta di volerlo fare. Può darsi che se la situazione dovesse effettivamente peggiorare ulteriormente, alla fine arrivino a questo punto, ma come dici non sono molto convinti su questo punto. Adesso abbiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo sempre con Alessandro Merli, dal quale io voglio capire tra l'altro se a questo livello, e visto che appunto la questione dei depositi overnight non convince molto, se ci sono altre frecce all'arco della BCE, che finora è stata effettivamente il salvatore della patria, non dico solamente la nostra naturalmente, però diciamo l'abbiamo letto come il salvatore della patria, se Draghi ha altre frecce al suo arco oppure no. A tra poco. Allora, ancora con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, allora, c'è ancora qualcosa in quella che negli Stati Uniti chiamano la cassetta degli attrezzi della banca centrale, da queste parti? Come no, c'è, ma la BCE ha deciso di non usare questi attrezzi. Intanto il tasso che pratica le banche nelle operazioni normali di rifinanziamento è allo 0,50%, il mese scorso l'ho abbassato di 25 punti base, questo mese volendo avrebbe potuto abbassarlo di altri 25 punti base per esempio, ma la BCE ha deciso di non farlo. La decisione non è stata unanime, quindi vuol dire che qualcuno questo ribasso dei tassi lo avrebbe voluto nel Consiglio, ma alla fine ha prevalso l'opinione di aspettare, continuare a monitorare i dati che arrivano, ha detto Draghi, e poi vedere, quindi non ha chiuso la porta al fatto che magari il mese prossimo lo si possa fare, ma forse sia lo stato dell'economia, sia il fatto che le previsioni dello staff che sono state pubblicate oggi segnano un ribasso sia dal punto di vista della crescita, sia dal punto di vista dell'inflazione, forse avrebbe potuto giustificare questo taglio dei tassi. Poi ci sono altre cose, Draghi ne ha enumerate diverse, ma in particolare il mese scorso aveva fatto riferimento a un'iniziativa per far ripartire il credito alle piccole e medie imprese attraverso le cartolarizzazioni. Nel frattempo però la BCE è diventata molto più fredda su questo strumento, dice che tocca alla Banca Europea degli Investimenti, che il suo ruolo sarà marginale, quindi diciamo che attrezzi ce ne sarebbero, bisogna però volerli usare. Naturalmente, giornata mi sembra complessivamente piuttosto attendista da questo lato, insomma. Senti una cosa, Alessandro, io volevo coinvolgerti anche, perché poi sarà il nostro tema di approfondimento nella seconda parte della trasmissione, e però visto che oggi il commento su questa vicenda lo firmi tu, e tra l'altro Draghi ne ha parlato, toccare la questione del Fondo Monetario Internazionale, questa sorta di ammissione di colpa sul salvataggio della Grecia, soprattutto sui dati e sulle proiezioni sbagliate, no? Oggi tra l'altro Draghi, lo dicevamo in apertura, gli è stato chiesto, si sente di dover fare un mea culpa per come è stata gestita la vicenda greca, ha detto non direi, secco, molto secco, non direi. Ecco, ti chiederei una valutazione su questo, perché qualche sospetto che si fosse fatto qualche errore in merito alla vicenda greca l'abbiamo avuto tutti. No, assolutamente, il Fondo Monetario almeno ha avuto il pregio di riconoscerlo, cioè ha detto sono state sbagliate le previsioni, in particolare non è stato calcolato l'impatto che questa austerità massiccia avrebbe avuto poi sulla crescita, quindi creando una specie di circolo vizioso fra tagli di bilancio e riduzione e contrazione dell'economia. Draghi non si sente responsabile, anche se evidentemente la BCE fa parte della troica, credo che abbia contribuito alla sua parte di errori. Dice in parte una cosa vera, cioè dice sono poi valutazioni che si fanno un po' con il senno di poi, cioè guardiamo con gli occhi di oggi dei fatti di ieri, all'epoca si guardavano diversamente, però non c'è dubbio che il Fondo Monetario scalpita un po' su come è stata gestita. Secondo te Alessandro, questo può portare ad un cambio di visione, o forse ha già portato ad un cambio di visione da parte del Fondo Monetario su questi temi? Ma il Fondo Monetario è da tempo, diciamo che ha fatto un ripensamento su queste cose, ha pubblicato anche un famoso paper nell'autunno scorso in cui si diceva ma il calcolo, adesso non riferendosi solo alla Grecia ma più in generale a tutti i paesi, in particolare europei, i calcoli che facevamo sull'impatto che hanno questi aggiustamenti fiscali molto pesanti sulla crescita, questo calcolo era sbagliato per difetto. Vediamo adesso che le conseguenze in termini di mancata crescita o addirittura di recessione sono molto più pesanti di quello che pensavamo in passato. E del resto il Fondo Monetario, che è considerato così l'alfiere, il paladino del rigore fiscale, paradossalmente nelle discussioni con i paesi europei in difficoltà è stato invece quello sempre che ha avuto la linea più flessibile. L'inflessibilità e la durezza sono venute soprattutto dalla Commissione Europea. Grazie Alessandro Merli anche per queste ultime valutazioni, questi chiarimenti sui problemi in seno alla troica. Adesso è il momento di parlare di mercati, non possiamo che introdurli ancora una volta, visto che insomma il calo in chiusura è del 2,63% per il FTSE MIB, del 2,45% per il FTSE All Share, e assistiamo ancora all'allargamento degli spread sia per quanto riguarda l'Italia sia per quanto riguarda la Spagna. Beh, facciamo introdurre i mercati proprio dalle parole di Draghi sulla crescita. Gli aggiustamenti di bilancio che rimangono da effettuare nel settore pubblico e privato peseranno ancora sulle attività economiche e in generale le attività economiche dell'Eurozona si riprenderanno e si stabilizzeranno nel corso dell'anno, sebbene con un orientamento piuttosto debole. Questa valutazione si riflette anche nelle proiezioni di giugno per l'euro area, che prevedono un PIL in termini reali declinare, scendere dal 0,6% nel 2013 e salendo di 1,1% nel 2014. Rispetto al marzo del 2013, le proiezioni BCE macroeconomiche, le previsioni per il 2013 sono state riviste marginalmente verso il basso, riflettendo così l'incorporazione degli ultimi dati legati al PIL. Per il 2014 c'è stato una revisione al rialzo marginale. Il Consiglio direttivo continua a vedere dei rischi al ribasso per quanto riguarda la prospettiva economica dell'Eurozona. Includono la possibilità di una domanda nazionale globale più debole e una scarsa implementazione di riforme strutturali nei paesi dell'Eurozona. E dunque veniamo proprio ai mercati con Livia Zancanerdi, Radio Corriere 24 Ore. Buongiorno Livia. Buongiorno. Anzi, buonasera in realtà, scusa, che di solito sono in onda la mattina e quindi a volte mi confondo. Dunque, quanto hanno pesato queste parole di Draghi secondo te, secondo le valutazioni che hai sentito in giro? Allora, le parole di Draghi hanno sicuramente pesato, anche perché le borse hanno iniziato a girare in territorio negativo proprio dopo le parole del numero uno dell'istituto, e Milano è quella che ne ha risentito di più, infatti ha perso il 2,6%. Bisogna dire, soffermarsi su due aspetti: da una parte la Banca Centrale Europea ha tagliato le stime sulla crescita dell'Eurozona per il 2013 e dall'altra il Presidente della BCE, quindi proprio Mario Draghi, ha confermato la possibilità di ulteriori stress test sulle banche, che oggi, come abbiamo visto, hanno perso terreno in borsa, penalizzando soprattutto Milano, dove lo spread ha chiuso in rialzo di 20 punti base rispetto alla chiusura di Scusami Livia, quindi già la parola stress test mette paura in sé, cioè basta questo, perché questo ci dovrebbe far preoccupare assai, insomma. In realtà sono indiscrezioni confermate. Quello che ha fatto crollare le banche a Piazza Affari è più che altro l'impennata dello spread, appunto di 20 punti base, un segnale che alla fine la speculazione sta tornando proprio sul nostro paese, anche perché, e meno sulla Spagna, anche perché abbiamo visto che l'indice spagnolo ha perso meno rispetto a quello italiano, circa meno 0,5%. Questo per quanto riguarda le banche in generale. Ci sono motivi particolari invece per il calo di Monte dei Paschi, che scende dell'8,08%? In realtà no, diciamo che ha risentito maggiormente dei realizzi sulle banche. Vediamo, guardandomi il grafico del titolo, si vede che nelle ultime settimane mi è cresciuto molto, vi è un trend ascendente più che altro dai primi di aprile, quindi ora è quello che ha risentito di più sostanzialmente del calo del settore. Restiamo sui titoli peggiori, le altre banche ve le do naturalmente: UbiBanca meno 6,16, Banco Popolare meno 5,23, Popolare Emilia Romagna meno 5,02, Unicredit meno 4,6, Intesa San Paolo meno 4,5%, Mediobanca meno 3,82%, e però il secondo titolo peggiore del listino principale è Fiat, come mai meno 6,48%? Sì, dobbiamo ricordare che anche Fiat era salita molto proprio sulle ipotesi relative a un'accelerazione della fusione con Chrysler e della quotazione poi a Wall Street. Oggi vi è un motivo, nel senso che alcuni analisti hanno stimato per Fiat un aumento di capitale tra i 2 e 4 miliardi per la società, se nel momento in cui Fiat volesse salire al 100% di Chrysler. Ricordiamo che a Fiat manca un 41,5% di Chrysler, che è in mano al sindacato americano. Per gli analisti, ricordiamo, l'operazione porterà a un miglioramento degli utili per azione, ma anche a un incremento significativo del debito. Dunque, Livia Zancanera, andiamo su qualche titolo positivo, va? Iniziamo da... ecco, abbiamo parlato di Fiat, che è andata molto male, parliamo di Fiat Industrial, più 0,17%, appunto, titoli positivi, ma insomma, mica questo granché. Sì, Fiat Industrial è andata bene, e ricordiamo, la società oggi ha comunicato come si chiamerà la società post-fusione, cioè post-fusione tra Fiat Industrial e l'olandese CNH. La nuova società si chiamerà CNH Industrial, per l'appunto, e sarà quotata a Wall Street, ma anche sul mercato telematico azionario italiano, quindi comunque resterà anche a Piazza Affari. Bene anche Pirelli, no? Dopo il divorzio, così viene chiamato, tra Tronchetti Provera e la famiglia Malacalza. Sì, Pirelli ha chiuso in territorio positivo, ha segnato più 0,11%. Gli analisti ritengono che con l'operazione il focus quindi dovrebbe tornare sui fondamentali e non più sulle speculazioni. Altri ipotizzano anche una possibile scalata o più che altro incremento della quota da parte della famiglia Malacalza, che ricordiamo dopo il riassetto avrà il 7%. Per contro, Canfin, la società sulla quale è stata appunto annunciata ieri l'offerta pubblica di acquisto, è rimasta sostanzialmente invariata e si è praticamente allineata agli 0,8 euro per azione dell'offerta pubblica, chiudendo quindi a uno 0,793 euro. Rimbalzo quasi anche per Telecom, quasi direi. Sì, Telecom trattava in territorio positivo, poi ha chiuso a meno 0,09%. Il titolo ha perso molto nelle ultime sei sedute, ha perso l'11,5%, ricordiamo che la società il 30 maggio scorso ha dato l'ok al tanto atteso scorporo della rete, o più che altro societarizzazione, mentre la decisione su un'eventuale integrazione con Tre Italia, che era in calendario in realtà per il consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri, è stata invece rimandata alla prossima riunione dei consiglieri che dovrebbe tenersi nel mese di luglio. Grazie Livia Zancanelli di Radio Corriere del Sole 24 Ore e buona giornata. Pensavate che l'era dei titoli tossici fosse finita? No, in realtà non l'avete mai pensato e non l'abbiamo mai pensato nemmeno noi. E però, insomma, oggi una bella inchiesta del Sole 24 Ore segnala come tutto questo stia tornando, non proprio nei canali bancari ufficiali magari, però da altre parti. Moria Longo del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto nei nostri studi. Buongiorno a tutti. Allora, andiamo da principio, ce la prendiamo con un po' di calma perché così spieghiamo bene tutto a tutti. Da principio spieghiamo, dici cos'è un'obbligazione salsiccia. Non si mangia, innanzitutto. Non si mangia, evidentemente, insomma. Allora, le obbligazioni salsiccia, così chiamate ovviamente giornalisticamente, sono i cosiddetti CDO in inglese, Collateralized Debt Obligation. Sono sostanzialmente obbligazioni nelle quali vengono messi dentro altri titoli, cioè praticamente un grosso salvadanaio nel quale buttano dentro titoli, non so, aziendali, obbligazioni bancarie, obbligazioni mutui, ci mettono un po' di tutto e vendono obbligazioni garantite da tutto ciò che ci sta dentro. Il problema è, erano le vecchie obbligazioni che venivano emesse. Perfetto, prima. Quindi proprio come una salsiccia, ci prendi la carne macinata, se vuoi ci metti anche, conosco un macellaio che lo fa, un po' di salame, ci metti il sale, il pepe e poi chiudi tutto E vendi e ci fai un'obbligazione sopra. Dunque, e naturalmente dentro questo ci sono insiti dei rischi, perché dentro alla fine non sai che cosa c'è dentro questa obbligazione in sostanza. Sì, il problema è che prima della crisi nel 2007 molto spesso chi comprava queste obbligazioni a sua volta le reimpacchettava in altre salsicce, cioè prendeva tante salsicce, le faceva un salsicciotto ancora più grosso e lo rivendeva, e poi con i derivati li replicava, faceva tipo dei cloni, degli avatar, li replicava sinteticamente e rivendeva a loro volta ancora la stessa salsiccia, diciamo, virtuale. Quindi i rischi che stavano dentro la prima salsiccia, cioè la prima obbligazione CDO, venivano moltiplicati talmente tante volte che quando poi in America nel 2007 sono saltati i mutui subprime, cioè quei mutui erogati a persone poco abbienti, a cascata hanno creato un tracollo sul mercato obbligazionario di questi titoli salsiccia talmente grande, talmente vasto nel mondo, che sono saltati comuni in tutto il mondo, banche. Io ho trovato CDO tossici di questo tipo in un convento di frati in Italia, ho scritto più volte articoli anche in passato. Sto convento di frati aveva comprato uno di questi titoli, improvvisamente valeva zero e ci hanno perso tutti i soldi della mensa dei naturalmente inconsapevole ovviamente di aver acquistato un prodotto così rischioso, insomma. Sì, non credo che l'avrebbero fatto altrimenti. Naturalmente. Che cosa entra in gioco adesso? Altra operazione educational, se vogliamo, ma anche per me per certi aspetti, no? Lo shadow banking, no? Sì. Che cosa è? Allora, diciamo che lo shadow banking è quel fenomeno che quella parte dei mercati finanziari che non rientra nelle banche, nel concetto di banche. Tutto ciò che è finanza ma non sta in banca. Quindi ci sono le società veicoli, veicoli strutturati, CDO per esempio, di cui abbiamo parlato adesso, ma anche certi tipi di fondi, cioè gli fondi speculativi, cioè tutta quella massa di soggetti che fanno finanza, fanno attività finanziaria come le banche, ma non sono regolate come le banche. Qui sta il problema, perché dopo la crisi finanziaria del 2007, sia in Europa sia negli Stati Uniti, ma un po' tutto il mondo, le banche sono state molto regolamentate, è stata Basilea 2, c'è stata una serie di regolamenti che hanno imbrigliato le banche, tant'è vero che è uno dei motivi per cui oggi per esempio in Italia non riescono più a erogare credito. Il problema è che hanno imbrigliato le banche in regole molto stringenti, piccolo particolare, si sono dimenticati di imbrigliare tutto il resto. Benissimo, quindi abbiamo presenti le due cose a questo punto. Cosa sono le obbligazioni salsiccia, appunto, e cosa è lo shadow banking, che insomma in sostanza sono queste strutture e sono queste che hanno ricominciato a giocare con i titoli tossici. Maggiori dettagli, qualche numero anche per cercare di capire dimensioni del fenomeno e problemi, perché appunto questa è roba, sono strutture non regolate, subito dopo la pausa e il giornale radio. Ed eccoci di nuovo, mi scrivete via sms al 349-238-6666, ma fai tappabuchi di secondo nome, no, è un caso eccezionale questo qua, insomma, questa sostituzione di Barisoni. Allora, siamo con Moria Longo, abbiamo fatto la parte educational poco fa, insomma, spiegando cosa sono le obbligazioni salsiccia e che cos'è lo shadow banking. Adesso vediamo di capire che cosa queste strutture sostanzialmente parallele alle banche, poi magari Moria ci fai anche qualche nome così affinché gli ascoltatori capiscano e identifichino di che cosa stiamo parlando, che cosa stanno facendo con questi titoli potenzialmente tossici. Allora, la logica di questa inchiesta che ho fatto era di andare non soltanto a guardare i titoli tossici, ma un po' tutti i fenomeni che c'erano stati prima della crisi, cioè tutte quelle cose che nel 2008 e 2009 abbiamo identificato come cause della crisi finanziaria, sono andato a vedere, vediamo come sono oggi. Ebbene, e stiamo rifacendo sono pari tutte pari. Peggio di allora, perché per esempio i derivati di cui tanto si parlava erano 596 mila miliardi nel 2007 e ora sono 633 mila miliardi. I mercati finanziari in generale sono 20 mila miliardi di dollari più grandi oggi rispetto al 2007. Ma poi stanno quello che veramente colpisce è il comportamento di molti operatori finanziari. Per esempio, è una notizia di questi giorni che la pratica di indebitarsi, quindi prendere soldi in prestito per investire in borsa, è tornata in record storici sia a Wall Street sia in Giappone. Quindi cioè, è paradossale, noi in Italia le imprese non riescono ad avere finanziamenti per investire, per fare il loro lavoro di economia reale, a Wall Street e in Giappone gli speculatori riescono ad avere finanziamenti record, si parla di solo in America quasi 400 miliardi di dollari di finanziamento per comprare azioni, quindi è una speculazione ad altissimo livello. Oppure i fondi di private equity, un'altra cosa che ho citato, questi fondi che comprano aziende. Ebbene, nel 2007 si diceva che le pagavano troppo, le indebitavano troppo, si speculava anche sull'acquisto di aziende. Ebbene, i prezzi di oggi, i multipli sugli utili, sulle EBITDA, sono tornati più o meno gli stessi del 2007. Ebbene, il senso di questa inchiesta, andando a vedere vari settori, era di capire e di mostrare ai lettori che i comportamenti che abbiamo ritenuto malati, inclusi i titoli tossici e determinati comportamenti che avevano ritenuto malati nel 2007, oggi non solo sono tornati e anzi hanno molto spesso volumi più grandi di allora, ma oggi nessuno più li chiama malati, cioè quelli che erano titoli tossici allora come i CDO, oggi sono opportunità di acquisto per avere buoni rendimenti. Ecco, questo sistema bancario ombra, vorrei capir bene da te, portaci qualche esempio, Moria, affinché, appunto, ti ripeto, riusciamo ad identificare qualcosa, perché qualche sms ci arriva, no, dagli ascoltatori, ci dite, sì, ma insomma, ditemi, fatemi un nome in maniera che capisco di cosa stiate parlando. Per esempio tanti hedge fund, i fondi speculativi, per esempio i cosiddetti CDO manager, sono delle strutture, dei fondi, simili ai fondi che gestiscono obbligazioni CDO. Per esempio, che sono strutture che funzionano, io ne conosco tanti sono persone serissime, non è che voglio dire criminalizzare nulla, il problema è che se tornano a ingigantirsi, per esempio tutti i titoli rientrano nel concetto di shadow banking, anche tutti i titoli cosiddetti over the counter, cioè fuori da qualunque mercato regolamentato, da qualunque, come appunto anche i CDO. I nomi sono nomi magari poco noti, non parliamo delle grandi banche, quelle sono note, i nomi del singolo fondo, del singolo CDO manager sono poco noti, le società veicolo fuori bilancio ci sono ancora, credevamo di averle seppellite con la crisi del 2007, ci sono ancora. Ebbene, tutti questi soggetti messi insieme valgono, secondo il Financial Stability Board, 67 mila miliardi di dollari. Oggi valevano 62 mila miliardi di dollari nel 2007. Il problema a questo punto è Mettiamo che si ripresenti, non sia mai tocchiamo legno, ferro e tutto il resto che voi ritenete, qui. Esatto, tenete tutto il resto che voi ritenete di toccare, mettiamo che salti tutto un'altra volta. Qua il problema è grosso, perché queste non sono banche e quindi l'idea di un salvataggio di Stato diventa decisamente più complesso. E però la minaccia alla stabilità finanziaria da sistemi di queste dimensioni è comunque enorme. Sì, l'oggetto dell'inchiesta è proprio questo. Cioè, il senso di tutto l'articolo era: il sistema finanziario è oggi grande, gigantesco come era nel 2007, anzi di più. Certi comportamenti ci sono oggi come ora, anzi di più. Quindi può succedere un'altra crisi sistemica, ovviamente nessuno lo sa e tutti scongiuriamo, speriamo che non accada. Il problema è: cosa c'è di diverso, cosa potrebbe succedere oggi se ci fosse, se accadesse? Allora, è sicuro che oggi gli stati non sarebbero più in grado di intervenire come allora, perché i debiti pubblici erano nel 2007 28.000 miliardi, sono oggi 50.000 miliardi, quindi gli stati hanno sparato tutte le cartucce. Le stesse banche centrali di cartucce ne hanno sparate tante. È vero che la fantasia dei banchieri centrali è illimitata, però a un certo punto l'efficacia di certe politiche monetarie va ovviamente sempre a diminuire. E poi ci si domanda: ma gli stati dovrebbero intervenire se saltassero per esempio gli hedge fund o i CDO o determinate cose? La risposta che vari economisti che ho interpellato mi danno è assolutamente no, perché lo Stato deve salvare una banca, perché la banca è di interesse nazionale, ma non certo l'hedge fund. Condividiamo tutti questo, quelli sono speculatori, facciano il loro lavoro, se va bene guadagnano, se perdono perdono loro. Il problema qual è? È che se ci succedono delle crisi finanziarie, che poi ormai il mondo è talmente globalizzato che se parte da una parte del mondo arrivano anche dall'altra, gli effetti vanno a finire sull'economia reale. Citavo per esempio un esempio ieri: è bastato il rialzo breve, non molto grande, dei rendimenti dei titoli di Stato americani nell'ultimo mese, che i tassi dei mutui in America sono saliti tantissimo. Cioè, se i tassi dei titoli di Stato americani sono saliti di 10, i tassi di mutui sono saliti di 30, perché c'è un effetto moltiplicatore. Allora, è bastata una piccola turbolenza solo nell'ultimo mese sui titoli di Stato americani, non una crisi, ma una piccola turbolenza, che già chi ha un mutuo in America paga di più. Allora, è ovvio che la finanza, che è così gigantesca, così invasiva, ricordo che è 10 volte più grande del PIL del mondo intero, è ovvio che non si può pensare che se succede qualcosa nel mondo finanziario è problema solo degli speculatori, perché l'onda d'urto sull'economia reale l'abbiamo sperimentato in questi anni, non è che ci stiamo inventando niente, è forte appunto sull'economia reale. Alla fine quelli che pagano il vero conto non sono gli speculatori, sono le famiglie, le imprese e gli stati. E lo stiamo vedendo adesso. Ci chiedete: ci sarà un'ennesima crisi? Beh, insomma, questo naturalmente non lo possiamo sapere. Di certo una cosa la possiamo dire: che evidentemente anche qua stiamo identificando ancora una volta un difetto di regolamentazione. Cioè, ma non un difetto nel senso che è difettosa la regolamentazione, nel senso che ci sono degli errori, nel senso che è proprio difettosa, nel senso che non c'è la regolamentazione, molto semplicemente. Moria, io ti ringrazio per oggi. Sicuramente questo è un tema sul quale magari si potrà tornare, naturalmente se lo riterrà opportuno il titolare della trasmissione. Noi ci fermiamo qua, abbiamo la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per parlare di questa vicenda del Fondo Monetario Internazionale, insomma, che sembra ricredersi sul piano per il salvataggio, chiamiamolo salvataggio, della Grecia. Tra poco. Ed eccoci nell'ultima parte della trasmissione. Vogliamo ritornare su questo tema del Fondo Monetario Internazionale. Insomma, ne avete letto, ve ne abbiamo raccontato anche in apertura qual è il punto: che il Fondo Monetario Internazionale in un documento sembra ritornare sui propri passi, almeno per quanto riguarda il cosiddetto salvataggio della Grecia. Tra l'altro, dice il fondo che probabilmente è stato sottostimato l'impatto dell'austerity, per esempio, e di aver sottostimato una serie di cose, come per esempio la sostenibilità del debito pubblico greco. Per quanto riguarda anche i dati sulla recessione, perché aveva previsto il Fondo Monetario che tra il 2009 e il 2012 il prodotto interno lordo di Atene sarebbe calato del 5,5%, ma la flessione è stata del 17%. La disoccupazione è stimata al 15% nel 2012, dato di oggi la disoccupazione greca è al 26,8%. Saluto Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno Beda. Buonasera, buongiorno. Buonasera, sì, scusate, io continuo ad avere questo problema, facendo la trasmissione la mattina, continuo a dire buongiorno, mentre invece in realtà, insomma, appunto, siamo a sera. Allora, buonasera, Gustavo Piga, economista dell'Università Tor Vergata di Roma, benvenuto. Buonasera, come sta? Bene, bene, tutto a posto, grazie, un po' stanchetto oggi. Allora, Beda Romano, inizierei da te perché in realtà Bruxelles, la Commissione Europea respinge con energia quello che si legge in questo documento del Fondo Monetario Internazionale. Sì, evidentemente questo è un documento che imbarazza molto la Commissione Europea, perché sappiamo che il salvataggio della Grecia è stato oggetto di critiche da molti osservatori e da molti economisti. In realtà le critiche che vengono dal Fondo Monetario Internazionale sono note, non è la prima volta che il Fondo dice queste cose. Il Fondo da tempo aveva spiegato che dal suo punto di vista il debito greco andava ristrutturato fin dal 2010. In parte il Fondo ha argomentato in questa direzione in questi tre anni, semplicemente perché ha sempre avuto paura di prestare denaro a un paese che non deve. Ah, stiamo perdendo Beda Romano, i fantastici treni del Nord Europa probabilmente funzionano benissimo, ma come nei nostri, quando vanno veloci è difficile tenere la linea. Allora veniamo a Gustavo Piga, economista dell'Università Tor Vergata di Roma. Come si diceva prima, professor Piga, come valuta questa uscita allo scoperto del Fondo Monetario Internazionale? Poco fa Alessandro Merli, che invece del Sole 24 Ore corrispondente da Francoforte, ci diceva: beh, insomma, sarebbe il caso che anche gli altri facessero un po' di mea culpa su come è stata gestita la vicenda greca. Gli altri non so chi sono, ma Il resto della Troica, la Banca Centrale Europea e la Commissione, naturalmente. Guardi, allora, io non ho letto il rapporto, ho letto soltanto l'articolo del Wall Street Journal e leggerò il rapporto con grande interesse. Le posso dire però che mi sembra di aver capito che qui ci siano due verità che celano due grandi ipocrisie e due ipocrisie che celano due grandi verità. E comincio per dirle quali sono le due verità nelle parole del Fondo Monetario. Abbiamo piegato le regole per rendere la traiettoria del debito più sostenibile. Questa è una verità di dimensioni eticamente gravissime per il Fondo Monetario Internazionale, quindi si interroghi, cominciamo a accusare il Fondo prima ancora che la Commissione. L'ipocrisia qual è dietro questa grande verità? È che in realtà la verità è le abbiamo piegate per rendere l'austerità più credibile. L'austerità sono la dimensione di questa menzogna, l'ha ricordata bene lei quando ha fatto lo scarto tra la crescita scritta e la crescita vera e la disoccupazione scritta e la disoccupazione che abbiamo avuto. E qua si crea un primo problema grosso. Se loro hanno fatto tutto questo per rendere l'austerità più credibile, se lo sapevano che l'austerità avrebbe fatto questo, perché l'hanno fatto? E qui arriviamo alla seconda verità, con la seconda grande ipocrisia, perché di nuovo rileggendo il rapporto del Fondo Monetario, testualmente, le banche che detenevano troppo debito greco, quindi le banche europee, soprattutto francesi e tedesche, hanno resistito alla ristrutturazione immediata che avrebbe reso invece meno caro per tutti i contribuenti europei la ristrutturazione stessa. Quindi questa è una grande verità che nasconde di nuovo un'ipocrisia, perché allora questo ci rivela che il Fondo Monetario è nudo, che non ha assolutamente nessuna autonomia, e forse anche le altre istituzioni della Troica, ma qui è il Fondo Monetario che parla per se stesso, rispetto alle grandi lobby bancarie. E questo è anche, trovo, di una gravità estrema. Poi ci sono due ipocrisie dirette che c'erano, a mio avviso, due verità. La prima ipocrisia è l'accusa alla Commissione Europea senza esperienza per la gestione della crisi, focus sulla compliance piuttosto che sulla crescita. È un'ipocrisia, perché il Fondo Monetario ha fatto esattamente la stessa cosa, ha mancato di esperienza sulla gestione della crisi. Nasconde però una verità terribile per il nostro futuro, perché siamo nelle mani di gente incompetente, a a parole, nelle parole stesse del Fondo Monetario. L'ultima cosa che le voglio dire, l'altra ipocrisia, che c'era un'altra verità, ci dice il Fondo Monetario, sì è vero, gli aggiustamenti dei target, se avessimo aggiustato in tempo con meno austerità avremmo potuto smussare la contrazione, però non l'avremmo potuto fare perché il programma avrebbe avuto bisogno di più finanziamenti, di più debito. Ora questa è una gran bella ipocrisia, perché invece senza austerità noi avremmo avuto, come ben sappiamo, molto meno debito di quello che si è creato in Grecia. Ma perché è rivelatrice di qualcosa? È rivelatrice di qualcosa questa missione del fondo, perché vuol dire che continuano a perpetrare, a non aver capito che questa austerità è la madre di tutte le instabilità finanziarie e la madre di queste finanze pubbliche disastrose che ereditiamo, il che significa che siamo doppiamente nelle mani di istituzioni incompetenti. Io le vorrei chiudere ricordandole i dati che sono usciti ieri di Eurostat, perché i dati che sono usciti ieri di Eurostat sono il primo trimestre 2013 sul primo trimestre 2012. Lei si ricorda che il primo trimestre 2012 sarà un disastro. Sì. Insomma, Grecia meno 5,3, Portogallo meno 4, Italia meno 2,3 rispetto a un anno in cui era già crollato del 2,3. È questa la misura migliore dell'enorme incompetenza? E se la politica non si sveglia e prende in mano la politica economica da queste istituzioni incompetenti, io le assicuro, non c'è euro che tenga, e questo sarebbe un dramma per l'Europa. C'è un'altra questione che pone questo documento del Fondo Monetario Internazionale, ossia, e questo probabilmente è stato un elemento di contrasto in seno alla stessa Troica, sulla necessità di una ristrutturazione del debito greco che avvenisse prima. Lei come la vede a questo punto di vista? Forse era meglio, come dire, procedere subito con una soluzione drastica vista la condizione finanziaria del paese? Ma certo, era fondamentale far incassare alle banche le perdite. Noi abbiamo fatto diventare un piccolo fuocherello, lo abbiamo fatto diventare un incendio su tutto il continente, ma questo è, lo diciamo da 2 anni, ormai è troppo tardi, non ci si può fare nulla. In un certo senso ci si può fare se impariamo dal passato, se in effetti adesso ristrutturiamo prima questo debito e soprattutto se molliamo tutti insieme le politiche dell'austerità, chiedendo alla Germania... Posto che la situazione è diversa, professor Piga, naturalmente anche per condizioni economiche e tutto, mi sembra che con Cipro si stia più o meno procedendo sulla stessa linea. Beh, con Cipro ci sono stati altri tipi di errori, sì. Tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale ricorda che mai ha fatto un aiuto così grosso in termini di percentuale della dimensione dell'economia con la Grecia, ma ricordiamo anche che a Cipro è stato chiesto un aggiustamento fiscale, di nuovo con questa tendenza, questa tensione moralizzatrice, hai sbagliato e quindi ti facciamo pagare, delle dimensioni di una manovra assolutamente improponibili per un popolo, quello cipriota, che assolutamente non aveva nessuna responsabilità o comunque responsabilità minori. Purtroppo questa crisi ha una tensione morale che non ci fa bene, e se noi non andiamo a confrontarci fortemente con la Germania e gli diciamo quello che pensiamo e quanto stiamo soffrendo, perché i tedeschi stanno facendo benissimo gli interessi loro, il problema, la colpa è nostra che non riusciamo a rappresentare i nostri interessi, e se non parliamo con i tedeschi continueranno sempre a fare quello che vogliono, giustamente. Professore, la ringrazio, grazie a Gustavo Piga che insegna all'Università Tor Vergata di Roma. Ci dite, insomma, rappresentate solamente una posizione, ma insomma, come sapete, in questa trasmissione come nelle altre, le posizioni vengono rappresentate, insomma, non sempre due a confronto, non necessariamente, ma magari nell'arco delle puntate delle giornate. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Con me ci sentiamo con 9 in punto domani mattina da Santa Margherita Ligure. Sarà in diretta anche Sebastiano Barisoni dalla Confocus Economia. A domani. Radio 24. La passione si sente.